Andrea Segre, regista del Io sono lì, ben ritrovato. Spiegaci il passaggio dal documentario al... Il passaggio non poteva essere più coerente in qualche modo, nel senso che era una storia vera che io ho incrociato sotto casa dei miei nonni a Chioggia, in Laguna di Venezia, dove appunto c'era una vecchia osteria di pescatori che a un certo punto è stata gestita da una cinese. E questa storia vera, che all'inizio volevo seguire documentariamente, poi invece è diventata la base per scrivere la sceneggiatura di Io sono lì. E come mai questo? Quella storia vera è nato questo film. Proprio per questo volevo chiederti, come hai sentito questa esigenza? Ma perché a un certo punto ho capito che questa storia poteva essere quella storia, diciamo, da villaggio globale, insomma, quel, no, il villaggio di mia madre dove trovo quella storia da raccontare al mondo, sì. Che è una cosa che molti registi poi prima o poi fanno, e che poteva contenere gli elementi per tentare un passaggio di, in qualche modo, metaforizzazione della realtà, no? Di partire da una realtà e poi trasformarla in una storia più ampia che diventa metafora di molto altro, come la narrazione scritta, insomma, riesce spesso a fare. Non che il documentario non ci riesca, anzi, ci sono dei momenti di documentario che raggiungono livelli di surrealtà o extra realtà altrettanto alti, però era bello provare a inventarseli, insomma, e così è nata questa sfida. Senti Andrea, per chi ci ascolta chiaramente, diamo a grandi linee dei riferimenti rispetto alla storia. Sì, è la storia di un ragazzo di 35 anni, Shun Li, cinese, che prima lavora nei laboratori tessili di Torpignattara a Roma. Il suo lavoro serve a ripagare il debito del viaggio che lei ha fatto per emigrare e per pagare anche il viaggio al figlio che è in Cina ma che dovrà raggiungerla. E a un certo punto viene trasferita a Chioggia, nella Laguna di Venezia, dove le viene dato il compito di fare la barista all'interno di una vecchia osteria che questa gruppo di cinesi comprano, e lei lavora dentro questa osteria. Dentro questa osteria incontra un pescatore di origini, anche lui straniere, di origini croate, ma ormai integrato nella società, che è Rade Cerbeja, l'attore, mentre la Shun Li e l'attrice è Zhao Tao. Tra di loro nasce un incontro che è anche un amore, che però le due comunità di origine, quella chioggiotta e quella cinese, fanno fatica o hanno paura a comprendere. Ecco, quali sono gli elementi, a tuo avviso, che hanno dato a questa storia un tratto di universalità? Io credo che molto, molto importante in tutto, in questo aspetto, ma in generale in tutto il film, e su questo devo molto alla mia formazione documentaristica, è il luogo dove ciò avviene, cioè la laguna. Perché i luoghi in cui abbiamo girato, poi particolarmente in una stagione particolare come l'inverno, sono luoghi che sono sì molto locali, no? Cioè permettono sì di identificare quel territorio, ma nello stesso tempo hanno una forza in qualche modo extra locale. Lavorando sul valore simbolico di quei luoghi e il rapporto tra queste differenze culturali e quei luoghi, c'è stata la possibilità di far crescere questo vecchio documentario e farlo diventare un film un po' più grande. Quel Io sono lì del titolo? È un gioco che mi è venuto in mente, lei si chiama Shun Li, lì, nello stesso tempo questa frase Io sono lì è forse una delle condizioni più evidenti del migrante, no? Che non è qui dove è sicuro di essere, ma è lì dove il tuo essere può cambiare, può vivere dei momenti di difficoltà, di tensione, ma anche di crescita. E questo incontro tra il pescatore e Shun Li è un incontro in qualche modo di solitudini in crisi, cioè il vecchio pescatore che vede il suo mondo cambiare e il migrante, la migrante, che decide di lasciare il suo qui e di trasferirsi in un lì. E così è nata questa idea. Soprattutto nei tuoi lavori precedenti, anche questo esordio nel film di finzione, ti sei sempre occupato di migranti e migrazioni. Che evoluzione hai trovato in questo argomento? Diciamo che con il documentario sono più attento, più interessato a dare anche una dimensione di attualità, insomma, al mio lavoro. nel senso che non ho mai fatto reportage giornalistici, però senza ombra di dubbio sia Sangue Verde come Un Uomo sulla Terra, su di Lampedusa, hanno sempre avuto anche un ruolo di informazione, insomma, rispetto ai temi, ai racconti dei documentari. Io sono lì, questa parte sicuramente la perde, ma guadagna forse un altro aspetto di universalità della narrazione, che secondo me, ripeto, c'è anche nei documentari, non è che il cinema di finzione ce l'ha come prerogativa, però ti permette di lavorare su alcuni tasti più delicati con quella libertà che sta nella creazione, nella finzione, che è anche poi il rischio del film, insomma, nel senso che lavorare con gli attori non è facile, no? Cioè, certo. Dover riuscire a credere che quell'attore diventa un pescatore, che quell'attore diventa un migrante, certo. E per questo poi ci si aiuta, ed è stato molto bello poterlo fare con attori non professionisti, con persone reali che hanno contaminato set con la loro realtà. Senti Andrea, invece a livello societario, nel corso del tempo, che tipo di cambiamenti, sempre sull'argomento migrazione, hai avuto modo di constatare? Ma c'è questa schizofrenia che stiamo vivendo non solo in Italia ma un po' in Europa, che da una parte la società ormai ha creato degli spazi di condivisione e di intreccio culturale completamente inscalfibili, no? Che stanno costruendo la nuova società. E io sono lì, è ambientato appunto in Veneto, che è uno dei luoghi, credo, d'Europa con ormai il maggiore livello di integrazione, ma contemporaneamente, appunto, questa schizofrenia di cui parlavo, cresce la potenza demagogica della narrazione xenofoba, no? Sì. E questa è una schizofrenia molto strana che produce delle vittime concrete, perché le persone che poi muoiono cercando di raggiungere la fortezza Europa, o che comunque vedono i loro diritti negati, la loro libertà limitata, sono vittime concrete di questa schizofrenia. Mm-hmm. E purtroppo è una schizofrenia che per la gran parte è dovuta solo ad interessi di consenso elettorale, mm-hmm, e non ad interessi materiali concreti, a paure materiali concrete. È una schizofrenia culturale principalmente, e su questo credo che il ruolo di chi racconta, come noi registi o scrittori, artisti, giornalisti, sia sempre più importante e costante. Oh, e mi parlavi anche di un'iniziativa a Venezia di voi registi che vi occupate del tema. Sì, proprio per questo, per tenere alta la nostra presenza non solo culturale ma anche politica, insieme ad altri registi e attori, te ne cito alcuni al volo, non tutti, insomma, Marco Paolini, Daniele Viccari, Daniele Gaglianone, Valerio Mastrandrea, Giuseppe Battiston, Guido Lombardi e altri che si stanno aggiungendo di ora in ora, abbiamo promosso e lo stiamo proprio diffondendo oggi un appello che chiede di cambiare alcune norme legate all'immigrazione e di evitare errori che si sono fatti o che si stanno continuando a fare, come i respingimenti, come il reato di clandestinità, come la detenzione per 18 mesi nei CIE, come il non riconoscimento del diritto di cittadinanza ai ragazzi di seconda generazione cresciuti in Italia. E abbiamo unito le nostre voci per contribuire a una comunicazione culturale e politica più capace a preparare una società più aperta e meno schiacciata dalle paure, perché non ha nessun senso che ciò sia. Bene. Andrea, un abbraccio, un in bocca al lupo, ci risentiamo presto sicuramente. Grazie, ciao, buona giornata. Ciao, ciao. Andrea Segre, regista del film Io sono lì.